Pronto? Ci siete? Mi sentite? Pronto, ci siamo. Ci siete, perfetto. Allora, siamo in collegamento telefonico con Riccardo dalla loro vettura, perché hanno finito le prove fino proprio in questo, da qualche minuto. Eccoci. Bene, Riccardo. C'è Riccardo e anche Ginevra, batterista. La batterista dei Colle Luna. Allora, ci scusiamo per così non aver rispettato proprio le tempistiche che ci eravamo ripromessi, però insomma ci stava una cosa molto importante qua per San Lorenzo, cioè ci sono stati due femminicidi, come sapete, in queste poche ore fa, insomma, una ragazza a Messina e un'altra qui a Roma, una studentessa proprio della Sapienza, che è stata ritrovata dentro, insomma, anche lei morta da qualche giorno. Ci siete? Ci siamo. Ok. E quindi insomma c'era una grossa manifestazione di donne, di compagne qui per San Lorenzo, per cui abbiamo, diciamo, finito la parte riguardante la diretta di questa passeggiata che c'è stata per qui per San Lorenzo, insomma, e da queste cose, insomma, così ci fanno abbastanza arrabbiare. Passiamo a sì, assolutamente. Sì, e passiamo, diciamo così, non a correggere ad argomenti più frivoli, poi vedremo se effettivamente lo saranno. Allora, Colle Luna, ci volete un po' raccontare dove nascono i Colle Luna e da quanto tempo ci sono, cosa hanno prodotto, poi mano a mano andremo avanti con la descrizione. Via discorrendo. Allora, noi siamo i Colle Luna, siamo un gruppo di Tivoli e diciamo ai dintorni, Tivoli in provincia di Roma, ovviamente. Siamo quattro, suoniamo un genere che tra le persone della nostra età fortunatamente sta riaffiorando, che è quel rock alternativo e di un po' quel rock che era uscito dalle classifiche da un po' di tempo, adesso sta ritornando. Noi nasciamo appunto qui a Tivoli da un'esigenza di suonare molto e fortunatamente ci siamo trovati noi quattro da subito. Suoniamo in realtà insieme come band da un anno, individualmente da un po' di più, però insieme da un anno circa. Nella formazione Colle Luna? Sì, che cosa? Diciamo nella forma Colle Luna. Esattamente, nella forma Colle Luna siamo da un anno quasi esatto in realtà, da maggio dell'anno scorso circa, del 2024. E abbiamo subito dopo, diciamo, esserci formati, aver provato le prime canzoni che avevamo scritto, abbiamo partecipato al Festival di Sanremo Rock, siamo saliti su a Sanremo e abbiamo suonato l'Ariston, cosa che per un gruppo ai primi, diciamo, tre mesi di attività è stata molto stimolante sicuramente. E di recente abbiamo concluso la registrazione e la produzione di un EP, sì, che si chiama Vega e uscirà il 2 maggio su tutte le piattaforme. E questa appunto serata del 5 aprile, in cui apriremo ai palcoscenici con Leon, che sono stati da sempre un gruppo che ci ha ispirati, anche loro di Tivoli, è veramente bello per noi, è la seconda volta che lo facciamo e siamo contenti di esserci. Bene, quello che subito viene in mente, al di là della cover che sta sul vostro EP Vega, è il riferimento allo stoner, ai suoni, insomma, del deserto della California e in particolare ai suoni dei Queen of the Stone Age. Che un po' fa il paio con quello che dicevi te prima, e dicevi pure sta un po' ritornando questo modo di suonare, perché stiamo parlando di musica che andava una quindicina di anni fa, insomma, non che lo stoner è una categoria a sé, quindi adesso proprio è uscito un che stiamo tra l'altro piano piano estrapolando qualche cosa, una raccolta di 182 tracce fra psichedelia, stoner, doom, metal, di band italiane raccolte appunto su Bandcamp, quindi qualcuno si è messo, diciamo, a fare una collezione degli ultimi anni, quindi tutte band, tutte uscite dell'ultimo periodo, e questo ci conferma che almeno dalle nostre parti appunto questi suoni cominciano o ricominciano a essere diffusi. Voi come siete arrivati a questo suono? Qual era gli ascolti che facevate? E perché appunto la vostra generazione ha ripreso a suonare stoner? Allora, quest'ultima domanda che mi hai fatto non saprei in realtà, però ti posso rispondere a quelle prima con quasi certezza. In realtà l'ascolto dello stoner, almeno per quanto riguarda me, che diciamo sono quello che più delle volte magari parte col riff del pezzo, gli ascolti che sono venuti prima della formazione dei Colle Luna erano in realtà molto classici. Parlo dei Beatles, dei Led Zeppelin, dei Queens of the Stone Age, appunto, che hai nominato, che sono una delle mie band preferite, anche delle nostre band preferite, in realtà, può confermare Gina, la band. Siamo andati e andremo al loro concerto con molto piacere. E attualmente devo dire che questo EP che abbiamo prodotto, gli ascolti principali sono stati due. Di cui fa il soneggio appunto i Verdena principalmente, che sono stati un po' di riferimento in cui abbiamo cercato il suono, perché da quando abbiamo scoperto i Verdena in realtà ci siamo un po' stregati, abbiamo un po' capito qual era la cosa che ci piaceva suonare di più, era più o meno quel suono molto sporco, molto genuino, che cerchiamo di riprodurre a modo nostro. E questo, niente. Dal punto di vista invece della composizione, poi chi è che scrive i testi che tra l'altro sono a metà insomma, in italiano o qualcosa anche in inglese, no? Mi sembra di aver ascoltato. Chi è che scrive i testi e qual è appunto è la scena, diciamo, che suggerisce poi le tematiche, o ci aggiungete qualcosa voi sulla composizione, appunto, sugli argomenti che trattate? Allora, parlando di chi scrive il testo, sono principalmente io, anche perché ti parlo chiaramente, probabilmente gli altri sarebbero capaci di farlo meglio di me, però io sono un po' geloso, non canterei mai una cosa mia che non è mia, ok? Quindi li scrivo io, e per quanto riguarda gli argomenti, in realtà cerco di parlare delle cose che ho da dire, e in quel momento ho da dire qualcosa su una relazione, dico quello, se forse in quel momento sono indignato perché nella società c'è qualcosa di sbagliato, secondo me io ne parlo e cerco di prendere una canzone come quello che è, cioè come un'opportunità di dire qualcosa ai più, spero che quello si noti. Hai detto principalmente, perché poi in realtà la composizione finale avviene anche con l'intervento degli e delle altre componenti del gruppo? Cioè, ti lasci consigliare? Sì, sì, sì, sì. Anzi, senza l'arricchimento delle scelte degli altri componenti e delle altre componenti, non so quanto sarebbero belli i pezzi, quindi li ringrazio molto. Bene. Invece per quanto riguarda il discorso Tivoli e dintorni, e quindi palcoscenico al Neon, appunto, che vi hanno voluto con voi per questa serata. E cosa si muove? Perché insomma sappiamo che a Guidonia c'era il dissesto, che pare non ci sia più, che era il posto dove, uno dei posti dove, in pace. Dove come cosa si muove nel quadrante est di Roma? Insomma, qualcosa sta nascendo oppure c'è un momento un po' di così di appunto dovuto come all'oscuramento per il dissesto che ha mancato? Allora, è venuto a mancare il dissesto, guarda, cioè me ne parli, guarda, io l'ho visto come una figura veramente paterna. Il dissesto è stato, non che non abbia una figura paterna, ma è stata una seconda figura paterna, quindi la sua chiusura è stata veramente una cosa brutta per me. Comunque, per quanto riguarda Tivoli, non ti so dire, perché non siamo molto al corrente della scena musicale di Tivoli, diciamo relativa magari al nostro genere, al rock. Però a Roma si sta muovendo molto e ci troviamo spesso, qualcuno di noi, alle serate, non so, al Wishlist, all'Alvarado Street. Vediamo dei gruppi veramente forti, sia giovani che meno giovani. Però insomma vi dovete spostare verso Roma. Sì, no, non diciamo con la chiusura del distretto non c'è un posto per fruire qua vicino, okay. Devo dire. Quindi bisognerà attrezzarsi anche per questo, per rimettere un po' in moto il circuito della periferia est, credo. Insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è un qualche serata la fanno su vicino a Santa Maria del Soccorso, però già ci muoviamo praticamente sul raccordo, noi siamo a certo, 20 km certo, da lì. Quindi. Diciamo in direzione però. Ascolta, sì. Cosa ci consigli di ascoltare? Perché appunto abbiamo le quattro tracce dell'EP di Vega, qual è l'ascolto che preferiresti mandassimo? Poi li manderemo tutte, una alla volta, però quale preferisci all'inizio, che rappresenta di più? È difficile. Devo dire che è difficile, sono tre pezzi che abbiamo pensato come una progressione, è quasi un concept EP, se si può dire così, però sceglierne una è complicato, direi Vega perché è quella che ci ha messo d'accordo tutti fin da subito. Va bene, allora guarda, io non so se avete altro da raccontarci, diciamo ci possiamo, magari no, facciamo una cosa, se hai pazienza ancora ascoltiamo Vega, tanto non dura moltissimo e poi ci risentiamo in onda, ok? Tu attendi là, va bene, vi attendete là, va bene, okay. Grazie mille, a dopo. questo vuoto è un vuoto dentro me. C'è un'astronave in cielo, forse no. Senza le tue risposte affonderò. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Riccardo e Virginia, se non sbaglio, Ginevra. Riccardo e Ginevra dei Colle Luna da Tivoli ci hanno raccontato. Quindi siamo, insomma, siete arrivati al ventennale dei Palco. Come è andata appunto questa vostra partecipazione, il vostro rapporto con i Palco, e magari lanciamo pure l'appuntamento di sabato prossimo insieme a voi. Sì, allora, per quanto riguarda me, diciamo, il rapporto con i palcoscenici con Leon è andato in una maniera molto spontanea, perché Lele, appunto, il chitarrista, sì, è stato il barista del dissetto, sì, per innumerevole tempo, se si dice così, e io negli ultimi tre anni ho avuto modo di conoscerlo abbastanza durante le serate, di stringere qualche rapporto e di parlare di musica. E quando abbiamo fondato questo gruppo, io l'ho pregato di farci aprire, poi è successo e adesso risuccederà al ventennale, che è un onore. Il 5 aprile, ricordiamo, alle 21 all'Ex Snia, via Prenestina 173, e poi si mangia, si beve, e poi dopo racconteremo in diretta meglio come proprio si divanerà tutta la serata in maniera compiuta. Ovviamente oltre Colle Luna ci saranno Ugly Circle, che è un gruppone proveniente più o meno da Ciampino e dintorni, gruppone perché insomma viene da una scissione, non siamo riusciti a chiamarli perché sono tutti impicciatissimi che devono lavorare, per cui volevamo anche interloquire con loro stasera con loro. E Pavel, che ascolteremo fra poco, Le Molestia, che è un gruppo Riot Girls Punk da Roma, e quindi sonorità che molto si addicono alla serata e invece alla notte di questa sera, quindi di donne incazzate per quanto succede nel mondo, e poi a chiudere i palcoscenici al Leon. Va bene, quindi Riccardo ci vede e Ginevra ci vediamo sabato prossimo. A sabato, ciao. Ciao, grazie. Ci prepariamo a contattare Pavel da Bologna. Dettagli con Colle Luna. Vorrei l'attenzione. c'hai te. Vorrei la concezione che c'hai te. Mi interessa poco ciò che pensi. Il mio mantra metti a fuoco solo ciò che vuoi. Le mie labbra quando oscura il cielo io mi accendo e lascio uscire quel che io c'ho dentro. C'hai te di lanciarti vorrei l'emozione che dai te. Wow!